Buongiorno, questa era la campanella e oggi è una bella giornatella. Io sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Nel 1867 nasce Marie Curie, fisica e chimica franco-polacca, due volte premio Nobel. Saluto il trio del Lento Violento, Antonio, Paolo e Alex da Torino. La musica è un forte sentimento, sesso, amore, dolce e violento. Se volete mandare i vostri sms 333 64 67 662. Il DJ è un grande uomo, ma sì, il Gigi è uomo suono. Sì. E mi scateno andando in pista dove c'è Gigi, il folclorista. Pota. Do la pota. Saluto tutti i tamarri e in particolare te, Gigi. Cristian 89 da Orzi Nuovi, Brescia. D'Agostino, una grande famiglia danzante. Un attimo di attenzione. Il miglior modo di predire il futuro è inventarlo. Alan Kay. My heart is not going to die. Just the love I could know. Vorrei salutare Giulia di Bergamo. Un bacio alla ragazza che legge i messaggi. Fabio da Lucca. L'appuntamento in discoteca con me, che sono Gigi D'Agostino, quello lì, e con la musica del cammino e tutta quella musica lì che suono io. Il cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 11 novembre al Papido Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza. Ci vediamo lì. L'armonia, l'amore e la complicità che c'è nella mia famiglia è qualcosa di invidiabile. Basta un niente per farci sorridere e non abbiamo paura di abbracciarci o di coccolarci. È un legame troppo profondo. Grazie per tutto l'amore che mi date. Dedico Per me amore a mamma, papà e Raffi. Vi adoro e vi amo. Mary. Mi piace guardarti giocare, mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Amore in quelle mani, quando si stringono le mie.

Este programa musical mental, mental, ole. Me gusta mucho más. Fammi una mixata, va. Appuntamento calabrese. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 11 novembre al Papito Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza. La vita è più bella quando suona la campanella. Il 7 novembre del 1914 nasce Archie Campbell, comico. Messaggio per Giulia. Come il topo ha bisogno del suo cacio, io ho bisogno di un tuo bacio. E che cacio? Della di Arezzo. Manuela di Torino. Siamo in due a voler essere amati. Alex di Cervignano, provincia di Udine. Sono Federico da Torino. Volevo dire a Manuela che anche io cerco una persona da amare con la quale posso iniziare a sognare. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto sempre con te. Credo in quel che ho provato ed è quello che vedo. Solo in te.

cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 333-64-67-662. A minuto, mia futura moglie, ti amo. Sei la luce dei miei occhi, sei la mia vita. Andrea da Valguarnera. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Dedicare Trescalosca ai miei due amici Duzza e Luca. Vi voglio bene, ragazzi. Fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte